E il giorno in cui arrivammo in automobile alla Raspellière, siccome non era lunedì, i Verdurin dovevano essere in preda a quel bisogno di vedere gente che turba uomini e donne e fa venir voglia di buttarsi dalla finestra al malato rinchiuso, lontano dai suoi, per una cura di isolamento. Infatti, dopo averci risposto che se la signora non era uscita doveva essere alla veduta di Deauville, che sarebbe andato a vedere, il nuovo domestico dal piede più veloce e già avvezzo a tali espressioni tornò subito a dirci che la padrona ci avrebbe ricevuti. La trovammo un po' spettinata perché veniva dal giardino, dal cortile e dall'orto, dove era andata a dar da mangiare ai suoi pavoni e alle sue galline, a cercare uova, a cogliere frutta e fiori per preparare il suo sentiero da tavola, sentiero che ricordava in piccolo quello del parco, ma sulla tavola, cui conferiva la nobiltà di non fare da supporto soltanto a cose utili e commestibili. Attorno a quegli altri doni del giardino che erano le pere, le uova montate a neve, svettavano infatti alti steli di viperine, garofani, rose e coreopsis, fra l'uno e l'altro dei quali, come fra paletti segnaletici e fioriti, si vedevano, attraverso il vetro della finestra, spostarsi al largo le navi. Dallo stupore che Verdurin, smettendo di disporre gli ornamenti floreali per ricevere gli annunciati visitatori, palesarono quando videro che tali visitatori altri non erano che Albertin e io, capii che, per quanto pieno di zelo, il nuovo domestico, cui il mio nome non era ancora familiare, l'aveva riferito male, e che Madame Verdurin, nel sentire il nome di ospiti sconosciuti, aveva ordinato ugualmente di farli entrare, per il bisogno di vedere comunque qualcuno. E il nuovo domestico osservava lo spettacolo dalla porta, cercando di capire quale ruolo svolgessimo nella casa. Poi s'allontanò di corsa a grandi falcate, perché era stato assunto solo il giorno prima. Dopo che ebbe mostrato ben bene ai Verdurin il suo berretto e il suo velo, Albertin mi scoccò un'occhiata per ricordarmi che non avevamo molto tempo davanti a noi per quanto desideravamo fare. Madame Verdurin voleva che aspettassimo la merenda, ma rifiutammo, quando ecco all'improvviso annunciarsi un progetto capace di annullare tutti i piaceri che mi ripromettevo dalla passeggiata con Albertin. La padrona, non potendo risolversi a lasciarci o forse a farsi sfuggire una nuova distrazione, volle venire via assieme a noi. Abituata da molto tempo al fatto che proposte del genere da parte sua non facessero piacere, e tutt'altro che certa probabilmente che questa potesse procurarcene alcuno, dissimulò sotto un eccesso di sicurezza la timidezza che provava nel farcela e, affettando di non essere minimamente sfiorata da dubbi circa la nostra risposta, non ci consultò nemmeno, ma disse al marito, riferendosi ad Albertin e a me, come se ci stesse facendo un favore: ci penso io a riaccompagnarli. Contemporaneamente s'applicò sulla bocca un sorriso che non le apparteneva in proprio, un sorriso che avevo già colto in certe persone quando dicevano a Bergotte con aria sagace: ho comprato il vostro libro, è così? Uno di quei sorrisi collettivi, universali, presi in prestito all'occorrenza, così come ci si serve delle ferrovie e delle imprese di trasloco, dai singoli individui, fatta eccezione per poche persone molto raffinate, come Swann o Charlot, sulle cui labbra non ho mai visto posarsi un tale sorriso. Da quel momento la visita era avvelenata. Feci finta di non aver capito. Quasi subito fu chiaro che il marito sarebbe stato anche lui della partita. «Ma sarà troppo lungo per il signor Verdurin», obiettai. «Ma no», rispose Madame Verdurin, condiscendente e allegra. Dice che lo divertirà molto rifare in compagnia di questa gioventù una strada che ha percorsa tante volte in passato. Se occorre, salirà a fianco del conducente. La cosa non lo spaventa di certo e ce ne torneremo tutti e due tranquillamente col treno, come bravi sposini. Guardate, non sta in sede alla gioia. Sembrava che parlasse d'un vecchio grande pittore, pieno di bonomia, il quale, più giovane dei giovani, è tutto contento di scarabocchiare delle figure per far ridere i nipotini. Ad accrescere la mia tristezza c'era il fatto che Albertine sembrava non condividerla e trovare divertente quello scarrozzarsi così per tutta la regione in compagnia dei Verdurin. Quanto a me, il piacere che m'ero ripromesso di prendermi con lei era così imperioso che non volli permettere alla padrona di guastarlo. Inventai delle bugie che le irritanti minacce di Madame Verdurin rendevano scusabili, ma che Albertine, ahimè, contraddiceva. «Ma dobbiamo fare una visita», dissi. «Che visita?» chiese Albertine. «Vi spiegherò, è indispensabile». «Ebbene, vi aspetteremo», replicò Madame Verdurin, disposta a tutto. All'ultimo momento, l'angoscia di sentirmi sottrarre una felicità tanto desiderata mi diede il coraggio d'essere scortese. Rifiutai nettamente, adducendo sottovoce a Madame Verdurin che a causa di un dispiacere capitato ad Albertine e sul quale desiderava consultarmi, bisognava assolutamente che rimanessi solo con lei. La padrona assunse un'espressione corrucciata. «D'accordo, non verremo», mi disse con voce tremante di collera. La vidi così irritata che, per aver l'aria di cedere un po', però forse si sarebbe potuto... «No», mi interruppe, ancora più furiosa. «Quando dico no, è no». Credevo che i nostri rapporti fossero definitivamente compromessi, ma sulla porta ci richiamò per raccomandarci di non staccare il giorno dopo, mercoledì, e di non venire con quell'arnese, che di notte era pericoloso, ma in treno, con tutto il piccolo gruppo, e fece fermare l'auto, già in marcia lungo la discesa del parco, perché il domestico aveva dimenticato di mettere nella capote il pezzo di torta e i biscotti che aveva fatto incartare per noi. Ripartimmo, scortati per un attimo, dalle casette accorse con i loro fiori. Il volto del paese ci appariva completamente trasformato. Tanto la nozione di spazio è, nelle immagini topografiche che ce ne facciamo, ben lungi dallo svolgere il ruolo principale. Abbiamo detto che quella del tempo le allontana di più, ma neanch'essa è la sola. Certi luoghi che vediamo sempre isolati ci sembrano incommensurabili col resto, quasi fuori del mondo, come quelle persone che abbiamo conosciute in periodi a sé stanti della nostra vita, al reggimento, nell'infanzia, e che non colleghiamo a nulla. Il primo anno del mio soggiorno a Balbec, Madame de Villeparisis amava condurci su un'altura dalla quale non si vedevano che l'acqua e i boschi e che si chiamava Beaumont. Poiché la strada che faceva prendere per arrivare là e che le sembrava la più bella in virtù dei suoi vecchi alberi era in continua salita, la carrozza era costretta a procedere al passo e ci metteva molto tempo. Una volta arrivati lassù, smontavamo, passeggiavamo un po', risalivamo in carrozza, ritornavamo per la stessa strada, senza incontrare un solo villaggio, un solo castello. Sapevo che Beaumont era qualcosa di molto strano, molto lontano, molto alto. Non avevo la minima idea della direzione in cui si trovava, non avendo mai preso la strada di Beaumont per andare altrove. Del resto, ci volevo molto tempo in carrozza per arrivarci. Faceva parte, evidentemente, dello stesso dipartimento o della stessa provincia di Balbec, ma per me era situato in un'altra mappa. Godeva d'uno speciale privilegio di extraterritorialità. Ma quando l'automobile, che non rispetta alcun mistero, ebbe superato Ancarville, le cui case avevo ancora negli occhi, mentre discendevamo di traverso la costa che raggiunge Parville, Paterni, Villa, chiesi, scorgendo il mare da un terrapieno dove ci eravamo fermati, come si chiamasse quella località, e prima ancora che l'autista rispondesse, riconobbi Beaumont, che sfioravo dunque senza saperlo ogni volta che prendevo il trenino, perché era a 2 minuti da Parville. Come un ufficiale del mio reggimento che mi fosse sembrato un essere speciale, troppo benevole e semplice per essere membro d'una grande famiglia, troppo distante e misterioso per non essere qualcosa di più e del quale fossi venuto a sapere che era cognato o cugino di questo o quel conoscente con cui ero solito pranzare, così Beaumont, collegata di colpo a luoghi da cui la credevo affatto separata, perdette il suo mistero e andò ad occupare il suo posto nella regione, facendomi pensare con terrore che Madame Bovary e la San Severina mi sarebbero parse persone come tutte le altre se le avessi incontrate al di fuori dell'atmosfera chiusa d'un romanzo. Può sembrare che il mio amore per i fiabeschi viaggi in treno avrebbe dovuto vietarmi di condividere lo stupore di Albertine davanti all'automobile, che porta persino un malato laddove egli vuole e impedisce, come io avevo fatto fino a quel momento, di considerare l'ubicazione come l'impronta individuale, l'essenza priva di succedanei delle bellezze inamovibili. E dell'ubicazione, certo, l'automobile non faceva come un tempo la ferrovia, quando da Parigi ero venuto a Balbec, una meta sottratta alle contingenze della vita ordinaria, quasi ideale alla partenza e che restando tale all'arrivo in quella grande dimora dove non abita nessuno e che porta soltanto il nome della città, la stazione, dà l'impressione di prometterne infine l'accessibilità, essendone in un certo senso la materializzazione. No, l'automobile non ci trasportava in modo altrettanto fiabesco in una città vista dapprima nell'insieme riassunto dal suo nome e con le illusioni dello spettatore a teatro. Con l'automobile entravamo dietro le quinte, nelle vie. Ci fermavamo a chiedere un'informazione a un abitante. Ma c'è qualcosa che controbilancia una progressione a tal punto familiare. Ed è il brancolare dell'autista che, malcerto della strada, torna sui suoi passi. Sono gli incroci della prospettiva che fanno giocare un castello ai quattro cantoni con una collina, una chiesa e il mare, mentre ci avviciniamo ad esso a dispetto del suo vano rannicchiarsi sotto un fogliame secolare. Sono i cerchi, sempre più stretti, descritti dall'automobile attorno a una città incantata che si muoveva in tutti i sensi per sfuggire e sulla quale finalmente si piomba dritti, a picco, nel fondovalle, dove giace immobile e supina. Di modo che l'ubicazione, questo punto unico che l'automobile sembra aver spogliato del mistero dei treni espressi, è come se invece, grazie ad essa, la scoprissimo, la determinassimo noi stessi quasi con un compasso, aiutati a sentire con mano più amorosamente esploratrice, con più sottile precisione, la vera geometria, la bella misura della Terra.